Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quando mi regalarono un favoloso cicciobello ultima generazione, mia mamma, Sarta, passò le notti a cucire un corredino coi fiocchi per il mio nuovo amico dagli occhi blu. Ciao, io sono Roberta, sono di Torino, ho 44 anni, un bimbo di 2 anni e di mestiere faccio l'illustratrice pubblicitaria. Questo fine settimana ho fatto una cosa che non mi capita mai. Ho riascoltato alcuni podcast di questo programma. Adesso vi spiegherò il perché. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, in diretta da Milano. Il programma si chiama Voi siete qui, segnatevelo. Se non, non so perché, però se non l'avete mai ascoltato, segnatevi quest'ora, segnatevi questo programma. A differenza di quello che accade di solito in questa radio, non facciamo informazione, non facciamo approfondimento, raccontiamo delle storie, e delle storie che appartengono a tutti. Ogni giorno una storia diversa, ogni giorno una persona diversa, ma soprattutto la storia che raccontiamo è un episodio della vita di quella persona che sia realmente accaduto, ma un episodio proprio, una piccola storia che ha un inizio, uno sviluppo e una fine. La scrivete, una pagina e mezzo, e poi la spedite a Voi siete qui, @radio24.it, e noi andiamo avanti per la terza stagione di Voi siete qui. Vi dicevo, ci sono dei podcast, se ad esempio dimenticate di segnarvi questo orario, le 16 in punto, insomma 16 in punto mica tanto, 16:07, 16:08 minuti, se non fate in tempo, avete altro da fare, ci passate per caso, segnatevi un'altra cosa, che c'è un podcast ovviamente dal sito di Radio 24 alla sezione podcast, le ultime 5 puntate, in streaming invece tutte le altre, altrimenti passando da iTunes attraverso un abbonamento. Dicevo, ho ascoltato un podcast dell'anno scorso, la ricordate la puntata di quello che voleva a tutti i costi una penna, una Papermate, che poi noi chiamiamo Papermate, si chiamerebbe Papermate ovviamente, che aveva quella col cuoricino che si cancellava, insomma spiegava che l'aveva tanto voluto quella penna che la prima volta che lo usava la spaccava a metà e gli veniva una sorta di fobia, di mania per le penne, adesso era pieno di cancelleria. Ecco, le storie come quelle sono simili alla storia di oggi di Roberta, perché spiegano dove nasce un sentimento. La storia di oggi di Roberta spiega dove nasce un sentimento di rivalsa fortissimo che lei provava nei confronti di due amiche, amichette, insomma erano delle bambine, e lo spiega con precisione. Se avete voglia, in questa mezz'ora di tempo, di lasciare, ma non vi basta mezz'ora, bastano 5 minuti, ma che 30 secondi, di cercare di ricordare dove vi è nato un sentimento di rivalsa fortissimo che nascondete ancora da qualche parte, che ce l'avete ancora, per qualcuno, per qualcosa, da dove arriva? 349-238-6666, oppure il profilo Facebook di questo programma o profilo Twitter, che sono Voi siete qui Radio 24 o Voi siete qui R24. L'hashtag è sempre Voi siete qui. State lì, scrivete o se no ascoltate. Questa è la storia di Roberta. Anni 70, seconda metà. Dovevo avere circa 7-8 anni e Anna, da quando ne avevo uno, era la mia migliore amica delle vacanze e del weekend. Quando la mia famiglia migrava nel borgo delle Valli Montane a un'ora da Torino. Giornate passate a correre nei boschi a giocare a nascondino, cercare funghi, sventrare alberi per costruire traballanti capanne indiane. Anna aveva sempre qualcosa in più di me e per questo un po' la invidiavo e un po' la mitizzavo. Aveva la casa più grande, la mamma più vistosa, l'auto più nuova e i giochi più famosi. Ma soprattutto aveva una tavernetta con palla disco e luci strobo, dove fratelli e sorelle più grandi si trovavano a limonare. E noi invece, piccole, passavamo i pomeriggi uggiosi con bambole e pentolini. Quando mi regalarono un favoloso cicciobello ultima generazione, mia mamma, Sarta, passò le notti a cucire un corredino coi fiocchi per il mio nuovo amico dagli occhi blu. Io non vedevo l'ora di far vedere ad Anna quei vestitini pastello dalle braghe arricciate. Ne avevo una borsa piena. E per me, che ero sempre una sfigata, o quantomeno più sfigata di lei, in fatto di possesso di qualunque cosa, era una soddisfazione enorme. Il cicciobello me lo regalarono, presuppongo, i miei genitori, e per me fu una grande gioia, perché era il bambolotto più in voga all'epoca, tutti avevano un cicciobello e ne esisteva di un solo tipo, e per me era veramente il fratellino che non avevo, perché io avevo una sorella e quello per me era molto importante. Quell'estate però Anna non era sola, la dovevo dividere con sua cugina Saretta, uno stecchino con viso da topo e capelli a caschetto, altezzosa e poco simpatica. Meglio ancora, pensai, la soddisfazione sarà doppia. Portai quindi la mia borsata di vestiario in tavernetta e sfoderai con orgoglio tutta la fatica che mia mamma aveva fatto. Mi pare di ricordare facce più serie del solito, ma forse è una suggestione. All'ora di cena, come di consueto, lasciai lì tutto, perché il giorno dopo avremmo ripreso con sottanine e ciucci l'accudimento dei nostri bambolotti. Il giorno dopo, però, non c'era più nulla. C'era sì il mio piccolino dagli occhi blu, nudo e infreddolito, e tutto il guardaroba, però, era sparito. Ne seguì prima la domanda ai genitori, poi alla prozia che piantava le carote lì vicino, poi alla sorella, poi ai vicini, insomma a tutti. Nulla, nessuno sapeva niente, volatilizzati. Io con il cuore a pezzi e mia mamma invece incavolata nera. Anna e la terribile cuginetta, mute, gnorri. Fu incidente diplomatico tra le mamme, la mia che come si e sai cercava indizi dappertutto e le loro che proteggevano le angeliche creature dalle fantasticherie di una bambina invidiosa. Ma io sapevo bene cos'era successo. Ritrovammo qualche giorno dopo sporchi brandelli di merletti e cappottini azzurri sparsi nel prato sopra l'orto della prozia, terreno chiuso da un cancello e accessibile solo alla famiglia, Anna compresa. Non ricordo come finì, ma per me segnò la prima grande delusione d'amicizia e la consapevolezza che la lealtà non è affare né dei grandi né dei piccini. Il rapporto con Anna non fu mai più lo stesso e probabilmente scattò in me una voglia di rivalsa tale che fino alla maggiore età, quando smisi di frequentare le valli, la mia missione fu di surclassare la mia fu amica in tutto quello che era possibile, dallo sport alla conquista dei ragazzi. E quasi sempre ci riuscii, senza falsa modestia. Un secondo, che rifletto. Ok, vado. Ma no, non abbiamo mai poi apertamente litigato. È sempre stato un rapporto poi alla fine buono, perché comunque anche se ci siamo però allontanate, soprattutto nella preadolescenza, abbiamo proprio cominciato un po', non dico a ignorarci, ma sicuramente a non essere più amiche come prima. Rividi invece la cuginetta circa 30 anni dopo, per caso, sfrecciare nei corridoi di un'agenzia, mia nuova cliente. La riconobbi subito, stessa magrezza e stessa espressione da topo che ha fregato il formaggio. Caso volle che in sala riunioni comparve proprio lei a parlare di lavoro con me. La guardai e fui tentata di chiederle perché. Perché mi avesse distrutto i vestitini e la fiducia. Le ricordai solo chi ero, anche se morivo dalla voglia di spiattellare tutta la storia puntandole il dito. La trovai anche affabile e simpatica e nell'apprendere alcuni dettagli della sua vita mi disse che forse era già stata bastonata a sufficienza. Certo è che se non fosse stato per lei e Anna, il mio piccino dagli occhi blu sarebbe stato il più bello ed elegante di tutta la valle. She goes every horizon has some glow. So una lite fra bambini è molto frequente, quasi tutti i giorni i bambini bisticciano. I motivi sono diversi, sono uno, tipo il calcio, forza Juve, no, forza Inter, e giù botte. Due, la gelosia di un amico, è il mio migliore amico, no, è il mio migliore amico, e giù botte. Tre, le prese in giro. Quattrocchi, ciccione, brufoloso e giubbotto un'altra volta. Poi si fa la pace e il giorno dopo si ricomincia. Questo più o meno succede tra i bambini. Tra le bambine è un po' diverso. Una lite fra due bambine è meno frequente, però scatena reazioni più grandi. Se poi vengono coinvolte le famiglie si complica ancora di più. Una lite tra bambine è fondata su invidie e gelosie. Le ferite di una lite fra bambine si rimarginano difficilmente. Anche dopo anni non bastano figli, amori, vite lontane che smorzino quel risentimento. Noi maschi una soluzione la troviamo quasi sempre. Facile, voi rimuovete tutto, non prendete nulla sul serio, quale donna non ha mai detto una frase del genere a un uomo? Invece per le donne è l'opposto, dicono. E tutto diventa più grave, molto più grave di quello che è. Mica come noi maschi. Infatti, quando qualche anno fa si è sposata mia sorella, ho comprato un completo per l'occasione. Io non sono abituato ad indossare i completi, però mia sorella ci teneva tanto che le facessi da testimone, quindi, visto che la festa di matrimonio è una cosa da prendere molto sul serio, mi ha obbligato a comprarne uno. E così ho fatto. Appena l'ho provato, non mi sono sentito quell'aria da uomo qualunque che sento sempre quando indosso un completo. La prima volta avevo trovato un completo che mi piaceva. L'acquisto, tra l'altro, aveva fatto felice un po' tutte le donne della mia famiglia. Mia mamma perché ero elegante, mia nonna perché ero ordinato e mia sorella perché, vabbè, la sposa è sempre la sposa. Insomma, al matrimonio faccio un figurone. Poi, quando il matrimonio finisce, il completo nuovo, che tanto mi piace, lo lascio dai miei. In quei giorni, tra l'altro, a Milano stavo pure facendo un trasloco, tanto non è che adesso che ho un completo che mi piace lo uso tutti i giorni, no? Anzi, praticamente da allora non ho più occasioni per usarlo. Fino a quando, pochi mesi fa, mi invitano a un altro matrimonio. Passo dai miei e me lo porto a Milano. Il giorno della festa, però, lo tiro fuori dalla busta e non lo riconosco. Sarò io che non me lo ricordo bene. Mi infilo i pantaloni, ma continuo a non riconoscerlo. Il tessuto è tutto accartocciato. Io me lo ricordavo leggerissimo, adesso invece è rigido. Il mio completo, che tanto mi piaceva, si è imbruttito, è orribile. Io sono uguale a quando l'ho comprato, non sono né ingrassato né dimagrito, le altre cose di allora mi vanno tutte bene. L'ho usato una volta sola, al matrimonio di mia sorella, quindi non può essersi usurato. Quel giorno lo passo pensando a cosa possa essere successo. E il primo indizio lo raccolgo per caso, qualche giorno dopo, dal calzolaio. Il calzolaio dove vado non è un vero calzolaio, è una lavanderia dove ti aggiustano anche le scarpe. Insomma, sono in fila. Il padrone discute con una signora. La signora aveva portato un tagliere a lavare e se l'ha visto restituire infeltrito. Il padrone si scusa e io ho una traccia. La seguo per trovare un secondo indizio. Torno a casa, telefono a mia mamma. Le chiedo se durante il soggiorno a casa sua il mio completo sia passato in lavanderia. Certo che c'è passato, mica lo puoi ritirare sporco, mi dice mia mamma. Lei lo ha portato alla lavanderia dell'Alessandro. E qui due indizi fanno una prova. Ha trovato il modo di vendicarsi. Lo capisco in un secondo. È lui il colpevole. La mia indagine lo ha scoperto, non ho dubbi. L'Alessandro era un mio compagno delle medie. Tutti i giorni lui arrivava a scuola con 5 pacchetti di figurine dei calciatori. 5. Ogni giorno aveva 25 figurine nuove. Grazie a quell'arsenale di figurine, ovviamente, aveva trovato la sua dimensione, il suo ruolo all'interno della scuola. All'intervallo tutti, anche quelli più grandi, andavano da lui a pregarlo di dargli una figurina. E io ero gelosissimo di lui, delle sue figurine e di tutti quelli che aspettavano l'intervallo per correre da lui. Un giorno, mentre il solito gruppetto pendeva dalle sue labbra, ho visto l'album e il grosso delle figurine tutto sotto il banco. Non ci ho pensato due volte. Ho avvolto tutto nella felpa, l'ho messa sotto la maglietta e sono corso in bagno tenendomi la pancia. Mi sono chiuso dentro, ho buttato tutto quel ben di Dio nella turca. Poi sono tornato al capannello e gli ho chiesto la figurina di Baresi, quello dell'Inter ovviamente. Quando si è accorto di avere perso tutto, ha fatto un casino tale che la prof gli ha anche dato una nota. Io mi sono sentito un verme, ma non ho detto niente. Non è mai venuto a sapere con certezza che ero stato io. Ma sono sicuro che quando ha visto mia mamma portargli il mio bel completo che mi piaceva tanto, ha pensato al suo album. Perché a noi maschi passa sempre tutto sopra, no? Babe, let's up sticks and go. I want us to holiday in Northumberland and go to the beach at Bamford Castle. È una bellissima donna Roberta nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. È bionda, gli occhi azzurrissimi, ha un bel sorriso e se partecipasse a Miss Voi Siete Qui, se mai esisterà, se la giocherebbe probabilmente tra i primi 2-3 posti. Alle sue spalle un grande sole, una bicicletta da donna azzurra e un seggiolino per il bambino. Pronto Roberta? Pronto, ciao Matteo. Come ciao stai? Bene, grazie, molto bene. Ti è passato un po' questo livore nei confronti della Saretta? Perché devo dire, Saretta e Anna, giusto? La Saretta è l'amica, sì. E Anna, scusami, esatto. Saretta la cugina e Anna l'amica. E l'amica, sì. Perché sin da quando attacchi col tuo racconto, si capisce che nonostante tu sia graziosissima, Roberta, guarda, nel raccontare come comunque era un'amica, le volevi bene, però la verità è che la odiavi questa bambina. Odiavi la tua amica e odiavi la cugina anche. Ma forse la cugina un po' di più, ma in realtà proprio perché la conoscevo la vedevo la cugina poco. Un po' di più al punto che quando l'hai vista nella sala riunioni hai detto guardala qua, adesso ci penso io. Tra l'altro scusami Roberta, ma cosa vuoi dire quando dici che dopo un po' di chiacchiere hai capito che aveva già preso abbastanza bastonate dalla vita? Ma perché comunque sai come siamo noi donne che subito ci raccogliamo. Dimmelo tu, ti prego, dimmelo tu. Ecco, allora te lo dico io, e noi donne anche dopo 30 anni che non ci si vede senza sapere niente l'una dell'altra ci si comincia a raccontare tutto quello che è successo nella propria vita, senza pudori, senza niente, almeno quasi tutta. E lei mi ha raccontato un po' di sua vita sentimentale, un po' travagliata, familiare, quindi insomma, tu quindi un pochettino sei uscito, cioè quel giorno di lavoro è andato bene alla fine quando l'hai incontrata e poi è stato detto che la sua vita era una specie di scatafascio. Diciamo che di cui una è andata, dai. Guarda che sembra che io sia così vendicativa. Di cosa stiamo parlando, no? Roberta, raccontami un secondo del tuo lavoro, perché tu sei un'illustratrice di pubblicità, dici? Sì, io il mio termine esatto è visualizer, non so se... No, che meraviglia, guarda, sto già godendo. Amo la pubblicità, visualizer? Esatto, che i visual sono le immagini fondamentalmente che sono utilizzate in pubblicità, che sia un annuncio, un manifesto... Ma mi sai un esempio per piacere, una roba che hai fatto... Tante cose anche se dici la marca chi se ne frega, tanto non vende di più perché la dici in diretta. Allora facciamo così, tanti lavori per la Chicco, per dire, o benissimo, per, esatto. Rimani sempre un po' nel settore tra Cicciobello, Chicco, giusto. Roberta, invece scusami, Anna l'hai mai più vista? No, in montagna. Sì, ma fino più o meno ai 20 anni, poi forse ci eravamo riviste, risentite, ma per brevissimo tempo, ma poi mai più sarà 20 anni. E tu non sei una che porta rancore, Roberta? Allora, così sembra. No, te lo sto chiedendo, scusa, no, davvero, no, sembrava, guarda, una battuta, no, ma te lo domandavo sinceramente. In generale no, perché magari sono molto fumantina all'inizio, me la prendo molto. Fumantina però... solo a Torino si dice, guarda, sei fantastica, solo nel Piemonte estremo. Fumantina è una parola allora che... poi faremo la traduzione. No, è chiarissima, anzi, solo che ha quell'aura un po' sabauda che hanno alcuni termini torinesi. Quindi sei un po' fumantina, però fumantina poi... Fumantina e faccio fuoco e fiamme subito, magari dentro di me, no? Infatti con Anna non ho mai poi litigato, no? Certo, però comunque non... Però 30 anni dopo in agenzia... Mi passa e dimentico. Ma va bene. A parte questo. Esatto, diciamo, tutto il resto è nato liscio, questa però esatto. No. Roberta, ti lascio... Cosa stai disegnando? In questo momento niente, perché stavo... Stai parlando, ok. Però... Esatto, però sono per una nota industria dolciaria, cioccolatini. Va bene. Ti lascio tornare ai cioccolatini. Roberta, grazie ancora. Grazie. Buona giornata. Grazie molto. Ciao. 349-238-6666, non c'è come dire che Roberta è una bella donna, che già fioccano i messaggi di complimenti per quelli che sono andati a vederla sul sito. E poi qualcuno mi scrive, Fulvio, io il Cicciobello di mia sorella l'avevo impiccato, me lo rinfaccia ancora adesso. Fulvio, come un Maurizio Cattelan qualunque proprio. Salve, io sono una ex brutta. Questa, attenzione, perché questo messaggio ha diverse possibilità di lettura. Io sono una ex brutta. Già comunque sono nella ex brutta, cioè nel senso, che tipo di brutta, fino a quando sei stata brutta, cosa vuol dire che adesso non lo sei più. Però fin da piccola mi sono considerata, e un po' lo ero secondo i canoni della bellezza, perfetto, me l'hai già spiegato, meno bella. Da allora ho lavorato sodo e ho continuato a farlo con molte soddisfazioni e riconoscimenti tangibili da uomini sul fatto che ora che ero a quaranta... no, non lo capisco. Niente, dovevo leggerlo prima. Tiz, me lo devi dire. Leggi prima i messaggi, ci riprovo. Sono una ex brutta, fin da piccola mi ci sono considerata. Da allora ho lavorato sodo e continuo a farlo con molte soddisfazioni e riconoscimenti tangibili da uomini sul fatto che ero a 47 anni una donna interessante e affascinante. Che ora, certo, ha sbagliato, Tinova. Che ora a 47 anni sono una donna interessante e affascinante. Grazie Bonini, ci ha messo in tre per capire questo messaggio. La rivalsa delle ex brutte, Ale da Gemme, e anche dalle nostre parti, Alessandra. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata: Tiziano Bonini, Margherita Ina, Mauro Pescio e Paolino Corleoni. Grazie soprattutto a Roberta e alla sua tigna, perché la storia di oggi era la sua, e anche lei è un punto rosso sulla mappa. We'll be right back. Antonella, vivo a Treviso. La storia di domani è la mia e parla di quello che ci può capitare in eredità. Questa è la mia storia e io sono qui.